Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se ieri, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo detto che il Data Gate, cioè questo scandalo delle intercettazioni dell'Organismo per la Sicurezza Nazionale Americano, continuava a crescere, a gonfiarsi, diciamo che oggi ha superato ogni confine. Non soltanto Angela Merkel, la cancelliera, è incavolatissima su questo punto, ma già ieri aveva dimostrato tutta la sua amarezza, la sua contrarietà, la sua indignazione, diciamo, pure perché sembra che sia stato spiato il suo cellulare, anche se Obama anche oggi continua a rassicurarla che così non è. Adesso viene fuori dal giornale inglese Guardian che sono stati spiati 35 leader mondiali, quindi persone comuni con i loro dati al telefono o attraverso i computer, ma in particolare 35 leader mondiali. C'è per esempio sul Corriere della Sera online una faccia di un Obama piuttosto contrito, dice che capisce le preoccupazioni e ci mancherebbe. Vediamo come si svolge man mano questa vicenda. Ci sono naturalmente tante altre notizie della giornata che vi racconterò tra poco. Fra gli ospiti ci sarà anche Piero Marrazzo, che ritorna, l'ex governatore, ricordate, del Lazio, ritorna in Rai con una trasmissione a metà novembre. Ma degli ospiti parliamo dopo, cominciamo dalle notizie principali. Dunque, vi dicevo, Datagate con il Guardian che dice che la NSA ha spiato appunto 35 leader mondiali. Schulz, presidente dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, dice che ormai i servizi segreti americani sono completamente fuori controllo. E poi c'è invece, per quanto riguarda il governo italiano, con larghe intese sempre più a rischio, Brunetta che attacca e dice la Bindi, che sapete è stata eletta presidente dell'antimafia, si dimetta o sarà guerriglia. E ci sono poi state le proteste dei malati di SLA, di sclerosi laterale amiotrofica, in questi giorni, e purtroppo oggi è arrivata la notizia che uno dei loro maggiori rappresentanti, il medico Raffaele Pennacchio, malato anche lui, è morto dopo il presidio sotto il Ministero dell'Economia. Torino, per il caso Murazzi, è indagato l'ex sindaco Chiamparino. E per il calcio parleremo anche di questa vicenda più in là. La Lega Calcio francese annuncia uno sciopero dei calciatori per protestare contro la supertassa al 75% voluta dal presidente francese Hollande. E partiamo quindi da questo scandalo che si allarga veramente senza più confini e irrompe anche nel vertice di Bruxelles, il Consiglio Europeo. Un argomento forse sino a poco tempo fa di cui non ci si aspettava di dover parlare al vertice di Bruxelles, Sergio Nava? Sì, buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. In teoria si doveva parlare di agenda digitale e protezione dei dati, un settore non così diverso, ma certamente non così scandaloso, già perché, come hai detto tu, piove davvero sul bagnato a Bruxelles. Le ultime rivelazioni sul Datagate hanno letteralmente preso in ostaggio il vertice europeo. Le ultimissime rivelazioni del quotidiano The Guardian, che hai citato, indicano infatti che la National Security Agency americana avrebbe spiato le conversazioni telefoniche di ben 35 leader mondiali, il tutto mentre proprio il Datagate dominava le dichiarazioni dei leader all'arrivo al Consiglio Europeo. Ricordiamo che nella prima sessione di lavoro, nel tardo pomeriggio, si è parlato proprio di agenda digitale. La più allarmata all'arrivo è sembrata la cancelliera tedesca Angela Merkel, giunta a Bruxelles, ironia della sorte, con un'auto targata 007. Sentiamo. Spiare non è accettabile, tra le altre ci vuole fiducia, ha detto Angela Merkel, aggiungendo: non è solo un problema che riguarda me, ma tutti i cittadini. La cancelliera ha aggiunto di aver protestato con Barack Obama nella telefonata di ieri. E la questione è stata affrontata anche dal premier Enrico Letta. Sentiamo Letta. Non possiamo minimamente tollerare che vi siano delle zone d'ombra, dei dubbi. Ieri ho chiesto chiarimenti in modo molto netto al segretario di Stato americano Kerry, e oggi credo che a livello europeo, mentre parliamo di digitale, di economia digitale, ovviamente il tema della crescita, del livello di protezione dei dati personali, della privacy dei cittadini e delle istituzioni comunitarie dovrà far parte della nostra attenzione. Dura la presa di posizione del Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, che è arrivato a minacciare la sospensione dei negoziati di libero scambio transatlantico in corso tra Bruxelles e Washington. Più tardi, in un'intervista alla CNBC, Schulz ha accusato i servizi segreti americani di essere fuori controllo. Un clima da guerra fredda, insomma, in cui nessuno si fida più di nessuno. Al tema Datagate è stato dedicato il bilaterale tra Angela Merkel e François Hollande, il presidente francese ha visto anche Letta. Il giornalista americano Greenwald, intanto, che custodisce i files di Edward Snowden, ha rivelato che anche che il governo italiano è stato spiato dalla NSA e i commissari europei Reding e Barnier si sono letteralmente infuriati con Washington. Ci sono anche due aggiornamenti di poco fa. Il primo è che fonti europee hanno affermato che il caso Datagate non dovrebbe comparire nelle conclusioni del vertice. Il secondo è il commento della Casa Bianca dopo quest'ennesima giornata, diciamo, molto calda sul fronte Datagate. Il portavoce Jay Carney ha detto: il presidente Obama comprende le preoccupazioni sollevate, per questo ha iniziato una revisione del sistema di raccolta dei dati da parte dell'intelligence americana. E Roberto, è tutto. Grazie Sergio Nava. Ma al vertice di Bruxelles, oltre a questo argomento proprio così dominante, si è parlato anche di altre cose, di immigrazione ed economia, vero Enrico Brivio? Sì, certo. Sì, tra i temi, diciamo, all'ordine del giorno ci sono quelli dell'economia, ironia della sorte, insomma, si parlava soprattutto di agenda digitale, come di far progredire l'economia digitale, di dare all'Europa, insomma, un quadro adeguato ad uno sviluppo sia delle nuove tecnologie 4G sia del cloud computing, e chiaramente però nel cercare di creare un mercato unico digitale rientra anche la problematica di una protezione della privacy e dei dati dei cittadini. Per cui in questo senso, forse solo in modo indiretto, è stato toccato dal Datagate. Poi altro tema molto importante, soprattutto per l'Italia, messo all'ordine del giorno dall'Italia, è stato quello dell'immigrazione alla luce della tragedia di Lampedusa, e qui in effetti è stato accolto, insomma, dai 28 leader un principio di solidarietà e di equa ridistribuzione delle responsabilità, quindi ci si è impegnati a rafforzare il sistema di sorveglianza Eurosur del Mediterraneo e anche a migliorare, insomma, quelle forme di pattugliamento comune che attraverso l'agenzia Frontex, l'agenzia europea per il controllo dell'immigrazione, si sono messi in atto. Non ci sono fondi aggiuntivi messi già in cantiere, però diciamo, dal punto di vista dei principi, almeno l'Italia è riuscita a fare passare la sua posizione, è un atteggiamento un po' più di condivisione da parte anche dei leader del Nord Europa, che di solito non sempre sono particolarmente sensibili a questo argomento. Grazie Enrico Brivio, direttamente da Bruxelles. Ed è stato, a questo proposito, c'è stato un accorato commovente, molto politico anche al contempo, concreto, l'appello che Giusy Nicolini, sindaca di Lampedusa, ha lanciato all'Unione Europea durante proprio un discorso pronunciato questa mattina all'Europarlamento riunito, come dicevamo, a Bruxelles. E quello che va cambiato è la politica d'asilo, il regolamento di Dublino, la possibilità, dare a queste persone la possibilità di non morire, perché altrimenti insieme a loro è l'idea di Europa che naufraga nel Mediterraneo. Ora che tutti avete visto quelle bare, noi ci aspettiamo che qualcosa cambi, non deludeteci per favore. Questo Bruxelles. Intanto in Italia il clima continua a essere molto acceso, molto teso, il clima politico, l'hanno confermato le parole pesanti pronunciate in serata da Brunetta. Le larghe intese sembrano di nuovo precipitare nel caos. Il Popolo delle Libertà minaccia infatti una guerriglia in Parlamento se Rosy Bindi, eletta ieri presidente della Commissione Antimafia, non si dimetterà dall'incarico. Le cariche istituzionali si decidono insieme, lo strappo dell'antimafia non può essere tollerato, ha spiegato il capogruppo alla Camera Brunetta, annunciando che il PDL ostacolerà l'attività di governo e Parlamento finché l'esponente del PD non rinuncerà all'incarico. Dura la replica del Partito Democratico, che lo accusa di giocare sulla pelle degli italiani per le battaglie interne al suo partito. Il nuovo scontro oggi era iniziato dal decreto sulla pubblica amministrazione in scadenza mercoledì prossimo. Per noi può anche decadere, aveva fatto sapere lo stesso Brunetta, per nulla preoccupato dall'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle. Ma le posizioni nella maggioranza restano distanti anche sulla legge elettorale. Dopo il vertice convocato in mattinata al Quirinale da Napolitano, PD e PDL hanno infatti presentato in Senato uno schema di riforma su base proporzionale, indicando i punti condivisi ma anche i nodi da sciogliere: secondo turno, premio di maggioranza, preferenze e liste bloccate. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Governo che torna a rischio proprio mentre sono iniziate con Confindustria le audizioni in commissione sulla legge di stabilità. Confindustria condivide l'impianto della manovra governativa, ma per renderla più efficace chiede con forza di aumentare le risorse a favore del taglio del cuneo fiscale. Lo ripete ormai quasi come un mantra il presidente di Confindustria Squinzi: più risorse per la riduzione del cuneo fiscale e per le coperture si proceda a tagli alla spesa pubblica improduttiva, solo così sarà possibile rilanciare la crescita. Una legge di stabilità che dunque gli industriali condividono nell'impianto complessivo, ma che viene considerata insufficiente per dimensione e velocità. Confindustria confida perciò nella possibilità che il Parlamento possa migliorarla, ma ciò, precisa Squinzi, non deve essere interpretato come un mancato rispetto per questa istituzione. E credo che le mie dichiarazioni siano state misinterpretate, me ne scuso. Se questo possa essere stato interpretato anche per il cattivo modo di riporto di queste dichiarazioni come una non considerazione della sacralità del Parlamento. Al Parlamento Squinzi chiede anche di procedere con più speditezza al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. È necessario immettere al più presto liquidità nel sistema. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel frattempo da Firenze, quindi questo per quanto riguarda Confindustria, nel frattempo da Firenze, dall'Assemblea dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, è tornata a chiedere sostanziali modifiche anche la CGIL con Susanna Camusso, quindi sentiamola al microfono di Ubaldo Cianciulli. Abbiamo chiesto e chiederemo al Parlamento di cambiare profondamente la manovra, perché pensiamo che la legge di stabilità non abbia in sé un principio di equità, pensiamo che sia necessario per un principio di giustizia ma anche per una ragione economica, che è quella che se si vuol far ripartire la domanda aggregata, che è l'unico modo per uscire da questa crisi, bisogna innanzitutto dare risorse a chi ha ridotto fortemente i consumi in questi anni. E questa notizia invece che è arrivata in serata: l'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino è indagato per abuso d'ufficio dalla procura del capoluogo piemontese in un procedimento che riguarda la gestione dei locali dei Murazzi, quei locali che ci sono lungo il Po. Chiamparino ha comunicato di essersi dimesso dalla presidenza della Compagnia di San Paolo. Diamo un occhio anche alle borse. I listini europei, dopo i cali di ieri, tornano a guadagnare terreno. Milano ha chiuso a un più 1,28%, in rialzo lo spread tra BTP e Bund a 238 punti base, cioè il differenziale, lo spread tra i decennali spagnoli e tedeschi è invece a 237, poco sotto quello italiano. Dati che confermano evidentemente ancora l'incidenza della crisi economica che ha portato a una sentenza oggi a Milano molto particolare. Relativamente a un imprenditore che doveva dei soldi all'erario, ma in qualche modo è stato giustificato, quantomeno considerata un'attenuante, il fatto che la sua azienda fosse sull'orlo del fallimento. Un'azienda informatica sull'orlo del fallimento. Un imprenditore milanese che denuncia all'Agenzia delle Entrate l'importo di IVA dovuto, ma poi non lo paga perché c'è la crisi e i soldi non bastano. Morale, secondo il giudice, ha avuto ragione. La storia è questa. In punta di diritto arriva la condanna penale. 6 mesi di reclusione convertiti in una multa da oltre 40.000 euro. Gli avvocati non ci stanno e chiedono il rito abbreviato. Sono convinti che il loro assistito non avesse intenzione di evadere. L'evasione però c'è stata e ammonta a 180.000 euro. I legali osano ancora di più. La colpa, dicono, non è dell'imprenditore, ma della difficile situazione economica dell'impresa e più in generale della crisi finanziaria del paese. Il giudice dell'udienza preliminare di Milano, Carlo De Marchi, ha dato ragione agli avvocati. Il fatto non costituisce reato, ha sentenziato, perché l'imputato non ha dimostrato la volontà di omettere il versamento. E si sa che, secondo il diritto italiano, se manca la volontà di commettere il reato, non si può essere imputabili. Evasore sì, ma innocente insomma per colpa della crisi. Arianna Filippini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci adesso delle proteste, delle gravi difficoltà dei malati di SLA, soprattutto per un caso di cronaca, una morte che è avvenuta ieri sera tardi. Dopo aver partecipato a 2 giorni a Roma davanti al Ministero dell'Economia alla protesta per il diritto all'assistenza domiciliare ai disabili gravi, è morto stroncato da un infarto Raffaele Pennacchio, di 55 anni, che era medico, era malato a sua volta di sclerosi laterale amiotrofica, membro del direttivo del comitato 16 novembre Onlus, da tempo si batteva per il diritto a un'assistenza dignitosa. Non abbiamo più tempo, ha ripetuto più volte in piazza prima che la morte lo cogliesse. Ieri, appunto, in un albergo della capitale, ieri è morto. Il giorno prima, cioè martedì, Raffaele Pennacchio aveva rilasciato in piazza questa intervista. Non possono trattarci così. Noi restiamo qui anche stanotte. Ci hanno promesso un incontro per domani mattina. Gli abbiamo concesso questo tempo per organizzarsi, però vogliamo finalmente risposte concrete, un risultato. Non possiamo andare via ogni volta con delle promesse, con delle chiacchiere. È ora di finirla. Parliamo ancora in qualche modo di salute. L'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro oggi ha dichiarato apertamente su Lancet Oncology, la rivista medica di riferimento mondiale, che l'inquinamento dell'aria è un fattore cancerogeno. L'affermazione arriva dopo l'analisi di studi condotti in tutto il globo, compresa l'Italia, come spiega il dottor Francesco Forastiere del Dipartimento di Epidemiologia della ASL di Roma, al microfono di Claudia Vanni. Gli studi nazionali su questo tema sono due. Uno è un grande studio che è stato condotto a Roma su 1.200.000 persone di età superiore ai 35 anni. La stima di rischio di questo grande studio di Roma è che la mortalità per tumore polmonare aumenta con l'aumentare della concentrazione di PM2,5 al proprio domicilio, e cioè aumenta del 5% per ogni 10 microgrammi metro cubo. E allo studio Escape ha partecipato Roma con 10.000 persone e Torino con circa 7.000 persone. La stima complessiva di rischio che deriva dallo studio Escape è addirittura maggiore di quella che è stata vista a Roma. E chiudiamo con il calcio. Avete sentito in questi giorni tutte le polemiche su Maradona, ma avere problemi col fisco, magari in modo diverso, sono tutti i calciatori, il calcio professionistico francese, al punto che i club transalpini hanno deciso di scioperare. Sentiamo perché. Ne faire qu'amplifier la destruzione dei club, donc la destruzione è una tassa che decreterà la fine di molti club e del calcio francese, sentenzia il presidente della Lega Calcio d'Oltralpe, Jean-Pierre Louvel. Perciò dal 29 novembre al 2 dicembre la prima e la seconda divisione del football transalpino incroceranno gli scarpini. Obiettivo: protestare contro la supertassa del 75% sulla parte dei compensi che supera il milione di euro. Pezzo forte della campagna elettorale del presidente socialista Hollande. La tassa è già stata riveduta e corretta dalla Corte Costituzionale. A pagarla saranno le aziende, non i privati, e per non più del 5% del giro d'affari. Insomma, Cavani, Ibrahimovic e tutte le altre stelle del Paris Saint-Germain quasi non se ne accorgeranno, mentre il club dovrà pagare almeno 20 dei 44 milioni di euro previsti come gettito da parte di 13 società calcistiche. Cifre che danno l'idea di come la questione sia tutta ideologica più che pratica. Non a caso, da quel Platini che è presidente dell'UEFA e simbolo del calcio d'Oltralpe, arriva una solenne bocciatura all'idea della serrata, che potrebbe portare anche alla richiesta di risarcimento danni da parte delle TV. Curioso e interessato, infine, il silenzio del Monaco. I biancorossi, allenati da Claudio Ranieri, sono infatti esenti dal tributo, perché fiscalmente facenti parte del Principato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi più in là torneremo sempre questa sera a parlarne ancora di questa faccenda dei danarosi giocatori di calcio francese, come tutti i calciatori professionistici del mondo, soprattutto in Francia, in Italia e in altre nazioni, e dei loro, così, loro ritrosia a pagare le tasse un po' più alte. Poi vi dicevo, ci sarà anche Piero Marrazzo, più tardi parleremo ancora di Datagate, e vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il filo dei fatti, Roberta Giordano sempre con voi. Prima di introdurre i primi ospiti, ritorniamo allora sui titoli dei fatti principali. In primissimo piano l'avete sentito, il Datagate che man mano esplode. Il Guardian, il giornale inglese, ha rivelato che la National Agency, Security Agency americana, avrebbe spiato 35 leader mondiali, e il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz dice ormai i servizi americani sono fuori controllo. C'è sempre maggiore indignazione mondiale, in particolare ne hanno parlato anche oggi a Bruxelles. Per quanto riguarda l'Italia, il governo delle larghe intese è sempre più a rischio. Brunetta attacca e dice la Bindi si dimetta o sarà guerriglia. A Roma un medico malato di sclerosi laterale amiotrofica, Raffaele Pennacchio, è morto dopo il presidio al Ministero dell'Economia. A Torino, per il caso Murazzi, è indagato l'ex sindaco Chiamparino. E per il calcio, la Lega francese annuncia uno sciopero di calciatori per protestare contro la supertassa al 75% voluta da Hollande. Ma ritorniamo subito sul Datagate, questo scandalo che davvero ormai non ha più confini. Già ieri si parlava di proteste che arrivano soltanto dalla Germania con Angela Merkel, ma dal Brasile, dalla Francia, dall'Argentina, persino dall'Uruguay, dalla Colombia, dal Venezuela. Insomma, non c'è quasi paese che non mostri la propria indignazione per queste intercettazioni fatte a tappeto ovunque da parte dell'Organismo per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Addirittura il primato per la protesta più clamorosa spetta al Brasile, con la sua presidente Dilma Rousseff, che ha attaccato gli Stati Uniti nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU a fine settembre, già l'aveva fatto, e ha parlato di una grave violazione dei diritti umani, un crimine, ha detto, totalmente inaccettabile. Allora, saluto subito Andrea Margelletti. Ciao Andrea. Buonasera a voi, un saluto ai vostri ascoltatori. Presidente del CESI, del Centro Studi Internazionali, esperto di antiterrorismo, hai sentito appunto che adesso si parla di 35 leader mondiali spiati. Forse è un po' una scoperta dell'acqua calda, Andrea? Ma direi di sì. Consentimi innanzitutto di scusarmi per la voce, non sto cercando di imitare un cantante confidenziale sul tratto d'attacco. No, ma in radio esce benissimo, la tua voce, in realtà, so che sei un po' malaticchio. Allora, diciamo così, i servizi fanno il loro mestiere e qua ci sono due dati che però vanno onestamente considerati. Mm. Buttare la croce contro i servizi americani è ingiusto, i servizi fanno quello che i governi gli dicono di fare. Quindi se bisogna suonare al campanello di qualcuno, il campanello è al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington DC, e quindi alla Casa Bianca direttamente. Mm. Dall'altro punto di vista, l'enorme capacità, noi viviamo in un mondo ormai che si muove su delle reti di telecomunicazioni virtuali interconnesse. Chi ha i maggiori computer, chi ha la maggiore capacità di calcolo, è in grado di rompere o di spaccare i cosiddetti codici avversari. Quindi chi ha maggiore risorse è in grado di fare di più. Queste capacità, che sono ancora strettamente americane, hanno probabilmente portato gli americani ad assumere atteggiamenti dove le loro capacità di intelligence non sono più connesse al buon senso delle proprie attività. Tra l'altro si rimpallano le responsabilità, cioè diciamo che da parte degli Stati Uniti non ci sono proprio delle risposte edificanti. Ieri hanno detto, beh, tanto spiano tutti. Poi oggi dicevano alla Merkel, possiamo assicurare, ha detto il portavoce della Casa Bianca Kearney, possiamo assicurare che non è stato spiato il cellulare della Merkel, almeno negli ultimi tempi, quindi figuriamoci, visto che cos'è il terzo mandato. E adesso l'ex segretaria di Stato americana Madeleine Albright ha accusato la Francia oggi di aver spiato le sue telefonate negli anni in cui era stata al governo americano. Insomma, si vogliono prendere le loro responsabilità o no? Cosa verrà fuori secondo te da tutta questa faccenda? Dove si arriverà? Da nessuna parte. Ah. Una straordinaria bolla di sapone, perché tutti sanno che tutti cercano di spiare gli altri. E il vero peccato mortale è che gli americani sono stati presi con le mani nella marmellata. E quindi al di là di gran cassa, alla fine poi bisognerà tutti tornare a fare business come prima. Quindi immaginare che questo porti a un radicale cambiamento nella politica di intelligence di tutti i paesi mi pare assolutamente improbabile. Semmai ci deve far riflettere che in un mondo totalmente globalizzato, come noi diciamo, amiamo considerare, o global, tra global e local, la sovranità nazionale ha ancora un fortissimo peso. Per chiudere, perché so appunto che sei malato e ti lascio subito, Andrea Margelletti, ma io ho sentito, non so se sia fantascienza, addirittura che su alcuni aerei di compagnie aeree in particolare ci possono essere anche dei microfoni nei sedili, che bisogna schermare i computer quando si lavora i computer in alta quota, delle cose secondo te tutte cose? Allora mettiamola così, ecco. C'è una vecchia storia, secondo me fortemente probabile, e che degli imprenditori di una nazione europea che dovevano fare dei contratti con gli Stati Uniti e dovevano naturalmente sovente andare in America per discutere con la loro controparte americana. Mm. E naturalmente dovevano prenotare i voli per andare negli Stati Uniti, e trovavano delle straordinarie offerte da parte della compagnia aerea americana. Mm. E quindi prenotavano sempre su quella compagnia, naturalmente in volo con qualche bicchiere di champagne in più è facile discutere e parlare più liberamente. Mm. magari si è diverso al drink un avvenente assistente di volo. E atterrati poi, diciamo, qualcuno andava a raccogliere le bobine. È una storia che si racconta, ma che ritengo fortemente verosimile, ma veramente non c'è nulla di male, signori. Se vogliamo vincere i contratti, se vogliamo aumentare il prodotto lordo nazionale, occorrono le informazioni, se no i contratti non si vincono. Quindi insomma una guerra tra chi è più forte in queste cose, chi ha più strumenti, come hai detto tu. Senti, spero che fosse una super super business class quella in cui sono stati spiati, no? Se viaggiamo noi, diciamo cose indicibili, non ci registra nessuno, no Andrea? Ma direi proprio di no, sicuramente le mie chiacchiere sono totalmente inutili, quindi nessuno si prenderebbe la briga le tue, insomma, di ascoltarle, ma c'è grande pianificazione. Diciamo che lo spionaggio funziona meglio nei paesi dove, oltre ad avere tante risorse, ma soprattutto nei paesi dove si fa maggiore sistema paese. E come gli Stati Uniti nessuno, forse? Come gli Stati Uniti, come la Francia, come la Bretagna, come la Germania, come il Giappone, che ha un servizio di intelligence praticamente solo dedicato a quello economico. Allora, in un paese dove si ha ben chiaro quali siano gli interessi nazionali, diventa più facile definire la strategia di lungo termine, al di là del governo contingente, perché l'interesse nazionale non cambia con il colore del governo. Quindi ho capito che noi non spiamo nessuno, ho capito, era sotto no, intesa. Non è vero che non siamo nessuno, però noi siamo ancora un paese fortemente diviso che al 25 aprile ha costantemente delle spaccature interne. Siamo ancora molto paese, moltissimo paese e un po' poco nazione. Grazie Andrea Margelletti, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ma su questo tema vorrei sentire anche il collega Enrico Pagliarini, tutti i sabati alle 15 col suo 2024. Enrico Pagliarini, grande esperto di tecnologia. E vedevo che, a proposito del cellulare di Angela Merkel, della cancelliera, vediamo se lo ritrovo, questa agenzia che diceva che lei aveva un telefonino che è stato spiato probabilmente fino al luglio 2013. Poi si sono resi conto che forse sarebbe stato meglio mettere un telefonino con dei filtri, ma si può essere sicuri al 100% se un telefonino di quel tipo, che non so poi quanto possa costare, Enrico. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Beh, allora, diciamo, gli esperti di sicurezza dicono e continuano a dire da anni che la sicurezza al 100% non esiste, ma non esiste nella realtà e non esiste nemmeno nel mondo virtuale, nel cyber world, quindi sicuramente non possiamo essere sicuri al 100%. Vale quello che dicevamo poco fa, dipende qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo siamo io e te, probabilmente possiamo stare abbastanza tranquilli. Chi te lo dice di me, per esempio, Enrico? Scusa, adesso presumo, sì. Diciamo. E comunque un conto sono le telefonate che viaggiano su reti cellulari, sono gestite dagli operatori, un conto è internet. E quindi su quello che facciamo su internet, su quello che mettiamo su internet, io penso che bisognerebbe avere un po' di attenzione in più rispetto a quella che noi abbiamo, ma se rimaniamo alle telefonate, sicuramente una telefonata della signora Merkel con qualche difficoltà, ma io direi che per un servizio segreto come quello degli Stati Uniti, ma non abbiamo citato questa sera ancora gli israeliani, anche potentissimi servizi segreti, mi preoccuperei di più dei cinesi che degli americani. Gli americani sono nell'occhio del ciclone perché Snowden ha detto un po' di cose, ha fatto la spia, diciamo, l'ex agente, sì, ma io sui cinesi questo lo dico, ma lo dico spesso, lo direi soprattutto alle aziende. C'è un grande, alcuni dicono che stiamo assistendo, senza accorgercene tanto, al più grande furto di proprietà intellettuale della storia, perché ci sono squadre non solo di servizi segreti, ma anche di cybercriminali che stanno rubando proprietà intellettuale dalle aziende. Quindi il problema è un problema molto serio, ma non riguarda solo gli Stati Uniti, non riguarda solamente i capi di Stato. Però per rispondere alla tua domanda, sicuramente la signora Merkel, anche con un telefonino di un certo tipo, potrebbe essere spiata. Poi dipende, se la telefonata viene fatta ad un ministro e anche lui ha tutto un sistema di protezione, magari la cosa diventa ancora più difficile. Però non dimentichiamoci che gli Stati Uniti da parecchio tempo stanno investendo in queste tecnologie e hanno, pensate, un comando che sicuramente lavora assieme alla National Security Agency, che si chiama Cyber Command, al Pentagono, quindi è una divisione del Pentagono che è pensata, progettata e studiata, finanziata per fare e prepararsi alla guerra digitale. Chiaramente qui non stiamo parlando ancora di guerra digitale, ma stiamo parlando di tutto un corollario di azioni di spionaggio digitale che insomma, Enrico, abbiamo capito che qui c'è poco da proteggersi, nel senso che non abbiamo neanche che nessuno ha gli strumenti. Consigliamo alla cancelliera Merkel di parlare il meno possibile al telefono, anche perché ancora non si sa se i telefonini fanno bene o fanno male. Sì. Grazie Enrico Pagliarini. Grazie a voi, ciao, buona serata. Ciao Enrico, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il filo del discorso, delle notizie, sempre Roberta Giordano con voi, e più o meno sino alle 22, come ogni sera, ve lo ricordo, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, appuntamento con il racconto delle notizie e con Effetto Note. E ricordatevi che per i vostri commenti c'è la pagina Facebook di Effetto Note, per riconoscerla dovete cercare Effetto Note trattino Roberta Giordano, e poi c'è anche il Twitter, la possibilità di twittare con Roby, scritto con la Y finale, trattino basso Giordano. Ma adesso ricominciamo, da, per chi non l'avesse sentito, dai titoli dei fatti principali. Ne abbiamo parlato poco fa del Datagate che ormai scoppia senza confini, con anche il giornale inglese Guardian che rivela che la National Security Agency americana avrebbe spiato, oltre a gente di tutto il mondo, in particolare 35 leader mondiali. E c'è il presidente del Parlamento europeo indignato, Schulz, che dice ormai i servizi americani sono completamente fuori controllo. Se ne è parlato anche al vertice di Bruxelles. Per quanto riguarda la situazione politica italiana, il governo delle larghe intese a rischio, c'è l'attacco forte di Brunetta che dice la Bindi, che è stata eletta giorni fa presidente dell'antimafia, si dimetta o sarà guerriglia. A proposito delle proteste dei malati di SLA in questi giorni a Roma, un medico malato di sclerosi laterale amiotrofica, Raffaele Pennacchio, è morto dopo il presidio sotto il Ministero dell'Economia. Torino, per il caso Murazzi è indagato l'ex sindaco Chiamparino. Per il calcio c'è questa situazione francese piuttosto complessa, tanto che la Lega Calcio francese ha annunciato uno sciopero dei calciatori per protestare contro la supertassa al 75% voluta da Olanda. Quindi sempre problemi col fisco del calcio, non solo Maradona. E poi vi dico anche i risultati di Europa League di oggi: Apollon Lazio 0-0, questo è il risultato finale, Fiorentina Panduri invece 1-0, e saremo più o meno al 20° del primo tempo. Adesso il prossimo ospite, che è Piero Marrazzo, che saluto. Ciao Piero. Ciao, buonasera a te e ai radioascoltatori. Piero, giornalista, ex governatore del Lazio, che dopo 10 anni torna in TV in Rai con una trasmissione che si chiama Razza Umana, a metà novembre, vero Piero? Sì, dal 13 di novembre in seconda serata su Rai 2. È una seconda serata che vuole tenere insieme il genere e il racconto dei documentari brevi, di 15 minuti circa, 4-5 in una puntata, e uno studio che non dovrebbe essere tra partecipanti che a volte possono diventare antagonisti, insomma, con uno studio comunque di talk show, ma uno studio con uno più ospiti che riesca a partecipare a fare il percorso che questi documentari dovrebbero proporre al telespettatore. E di che, quindi, per creare il dibattito in studio, che tipo di documentari dovrebbero essere? Guarda, Razza Umana, come tu sai, è la risposta che diede Albert Einstein quando nel 1933 doveva riempire il modulo arrivando negli Stati Uniti, e il modulo dell'immigrazione. Per lui non poteva esserci che solo l'uomo, non un uomo che appartenesse a una razza e un altro ad un'altra di colore diverso, e quindi utilizzò il concetto di specie per dire gli uomini nella loro diversità però poi sono sempre, appartengono e vivono quella centralità che deve essere data all'individuo, alla persona. Da questo cosa vuol dire? Che lavoreremo sulle storie. Di solito noi giornalisti, e mi piace darci del tuo e tornare a fare il mio mestiere, che cosa dovremmo fare? Raccontare episodi, fatti, eventi, ma poi che ci aiutino a capire il mondo. Ecco, e questo è un modo, come sempre, di svolgere un'attività professionale. Piero Marrazzo, tu dici che appunto ti occuperai di storie, è un po' inevitabile parlare anche un po' della tua storia, no Piero? Assolutamente sì, ecco. Cioè, ho fino al 13, poi grazie a Dio potresti tornerò a essere chi le racconta e chi sta evidentemente dalla parte di non certo del protagonista, quindi fino al 13 è giusto raccontare la mia storia e io rispondere alle domande. Fra l'altro, come rispondi per esempio a questa domanda dell'Associazione Utenti Radiotelevisivi, oggi c'è stato questo comunicato, che solleva dubbi in merito all'opportunità di far tornare Piero Marrazzo alla conduzione di un programma sulla rete di Stato. Dicono, senza entrare nel merito della vicenda che lo vede coinvolto, crediamo sia meglio attendere l'esito del processo in corso. Ma qual è quello, non che riguarda te, ma i carabinieri che avrebbero messo in atto il ricatto? La correttezza di come hai impostato la domanda. Pur rispettando le opinioni di tutti, io ricordo che in quel processo io sono parte lesa e vittima e quindi in secondo luogo che sono un giornalista della RAI, la questione è svolgere la propria attività, poi se la svolgi al desk o la svolgi no, con la tua firma, e la firma in televisione può essere anche andare in video, ma io voglio dire una cosa, colgo l'occasione perché credo che sia giusto. Io ho commesso un errore personale che però ha avuto dei riflessi assolutamente pubblici perché ero il governatore di una regione, ho sbagliato e chi sbaglia deve assumersi le sue responsabilità, però vorrei ricordare che quell'errore non aveva assoluta attinenza con lo svolgimento delle mie mansioni, che era governare, era svolgere funzioni di commissario per la salute o per i rifiuti. Perché dico questo, Roberta? Perché io l'errore l'ho commesso nella mia vita privata, in primo luogo nei confronti di chi mi stava vicino, a partire da mia moglie e da miei figli. Ma poiché sono convinto che un uomo pubblico e che è a capo di un'istituzione non può lasciare sospetti, non può avere comportamenti sbagliati, anche se se ne sono dette talmente tante e soprattutto tante cose non vere, ma io l'ho detto a chi lo devo dire, ai magistrati, e poi ho consegnato le dimissioni. È un gesto che aveva un significato, restituisco le chiavi e torno a essere un cittadino e a svolgere le mie attività. Piero, quando tu dici che hai riconosciuto i tuoi errori, in particolare naturalmente verso la tua famiglia, quindi in una dimensione strettamente privata, ma ti riferisci in particolare al fatto di avere assunto droghe, cocaina, quello che è, al fatto di essere stato trovato con dei transessuali, al fatto di aver utilizzato l'auto blu per andare no, in quel ecco, luogo? No, ecco, anche qui ti ringrazio, ma l'auto blu, a parte che era tutela, io non potevo rinunciare, tant'è che anche a te che sei una giornalista, ricordo che se avessi commesso qualcosa di sbagliato mi sarebbe stato contestato dalla giustizia. E quindi io ho commesso, andare in un luogo per un cittadino privato, normale intendo dire che non ha una carica istituzionale, pubblica, certo. Non è quello il reato. Io poi ho sempre spiegato, e lo sanno i magistrati e chi mi conosce, ho parlato di poche occasioni ed estemporanee, ma anche poche occasioni non è sbagliato perché dobbiamo entrare nel merito, ha sbagliato l'uomo pubblico. Il privato non è giudicato. Quindi sei d'accordo che erano magari cose un po' incompatibili, soprattutto diciamo l'assunzione magari di droghe con una carica istituzionale, poi uno assolutamente sessualmente. Assolutamente, anche lì è evidente che io ho detto di averlo fatto in occasioni, ma non è quanto, basta farlo una volta, bastava che io l'avessi fatto una volta. Che era sbagliato, dici. Per me avevo non potevo andare avanti, vedi, la questione è che e che a volte però non basta il gesto delle dimissioni. I giornalisti hanno fino a ieri ho dovuto denunciare per calunnia. Io non ho mai utilizzato somme come mi sono state attribuite, non sono stato, se avessi fatto tutto quello che mi è stato detto non avrei avuto il tempo né di essere un padre, un genitore, un marito, ma nemmeno un presidente della regione, questo perché te lo dico, perché l'esasperazione su di me, ricordo che il processo non è a me ma ai carabinieri, ma parliamo di me perché voglio parlare di me. Io torno a essere un giornalista, torno a essere qui intorno, in realtà sono 4 anni che sono tornato in Rai, Però la questione è, Marrazzo si è dimesso? Ecco, in termini pubblici io credo di aver fatto ammenda dimettendomi. Senti, a questo proposito, scusa sì. Piero Marrazzo, molti, quando è venuto fuori lo scandalo invece Ruby su Berlusconi, hanno paragonato il caso di Silvio Berlusconi al tuo. Tu trovi che sia paragonabile? Ma guarda, io non, in questi casi io non trovo mai, devo essere sincero, ho sempre trovato che dire se le dimissioni sono un fatto da percorrere o meno, no? E così dai una pagella a qualcuno. Io non do pagelle, io voglio dire, io ho pensato che fosse giusto nel mio caso dimettermi. Ti voglio dire però una cosa, lo dico perché oggi ancora qualcuno dice, per esempio, viene premiato andando a lavorare. Tu che sei una giornalista, ma anche lo dico a chi, io sono pagato come dipendente giornalista tutti i giorni. Sia chiaro, in questo paese a volte ho visto dire delle cose, tu mi hai chiesto di Berlusconi. Berlusconi ha guardato la propria coscienza e ha deciso che lui non voleva dimettersi. Ha scelto e gli lascio fare questa scelta. Io personalmente, e guardo solo a me, però ti sei dimesso. Senti, ma non ne faccio un vanto, perché io mi sono dimesso perché ho sbagliato. Perché hai sbagliato? Dimmi una cosa, sul consumo. Vorrei che questo fosse chiaro. No, no, questo è chiaro, Piero. Dimmi una cosa, Piero. Sulla questione di assunzione personale di droghe o sul il tema dell'omosessualità, tu sei molto liberale su questi temi? Sì, io credo che. Allora, voglio fare un passo indietro, no? Perché anche di questo Piero Marrazzo bisogna riportarlo. Io, tu non so se lo sai, ma io ho scelto di andare in un monastero, primo per salvaguardare la mia famiglia, eravamo assediati da fotoreporter, giornalisti, furono momenti molto difficili. Ma sai perché sono andato anche in un monastero, oltre per ritrovare me stesso? Per dimostrare a chi stava fuori che in un luogo dove c'è la regola del silenzio, e dopo una settimana una persona normale non resiste a quelle regole, volevo dimostrare che io non avevo nessuna questione e problema di dipendenza. Cioè, io ho solo detto che in qualche occasione estemporanea, sulle punte della vita, avevo fatto una cosa. Però vogliamo dire, Piero, che ognuno poi va a letto con chi gli pare, adesso al di là. Beh, no. Io vorrei dire, io sono uno che credo che il Presidente della Regione non può avere frequentazioni che possano lanciare sospetti, Uricati, non può avere comportamenti che può avere sospetti. Io l'ho fatto, devo io chiudere. Quindi torni a fare il giornalista. La questione Piero. Però, e chiudo davvero, te lo dico sinceramente, anche perché io voglio, a parte che dico a una giornalista di una testata molto seria, una cosa mi è sembrata molto strana, che tutti i miei colleghi si sono interessati al buco della serratura, ma non hanno mai chiesto, non hanno mai analizzato i 5 anni miei di governo. Non ti sembra un po' strano? Forse si poteva un po' verificare anche cosa avevo fatto, ma oggi lo lascio, come dire, alla storia. Torno però a fare il giornalista. Torni a fare il giornalista, lo ricordiamo, da metà novembre Piero Marrazzo su Rai 2 Razza Umana. È dal 13? Da che data esattamente? Dal 13. Buon lavoro. Dico, allora. Guarda, mi devi perdonare, però io per esempio ho ascoltato dei tuoi colleghi che stimo, che sono Crociani e Parenzo, altre volte devo dire un'onestà intellettuale con la quale loro che sono provocatori e quindi non si fermano al buonismo assolutamente. Io non penso, quando parlo di un errore, non voglio assumermene oggi un elemento quasi di riscatto, ecco, io ho superato, no. Io lo metto lì, e torni in una seconda vita, possiamo dire, Piero Marrazzo. Magari spero di fare delle interviste migliori, avendo visto anche che cosa può essere il bene, e anche le sliding doors, no? Quale porta scegliere? Io te lo auguro, ti auguro di scegliere la porta migliore. Grazie Piero Marrazzo, buon lavoro. Grazie allora a da noi. Grazie ai radioascoltatori. Ciao Piero. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, e in questi pochi minuti che ci restano vorrei salutare, visto che è presa dai lavori parlamentari, Irene Tinagli, buonasera. Buonasera. Onorevole Tinagli, deputata di Scelta Civica, economista. Vorrei che ci spiegasse in questi pochi minuti, se riusciamo, due questioni principali. Una, che cos'è tutto questo caos che sta creando il passaggio del decreto sulla pubblica amministrazione? Abbiamo capito anche Brunetta che ha detto, secondo me può anche non passare, c'è un po' di, non so se sono questioni solo intestine politiche tra i partiti o all'interno dei partiti, oppure se c'è veramente un problema rispetto a questo decreto. E poi, se riusciamo, parliamo anche di Scelta Civica. No, su questo decreto ci sono delle questioni proprio di merito, perché da un lato ha l'obiettivo anche meritevole di cercare di mettere un po' di ordine in una materia, quella dei concorsi pubblici, delle graduatorie, dei precari, che si trascina da anni e anni, cercando di dare delle opportunità alle persone che magari stanno lavorando lì con dei contratti a tempo determinato di poter entrare con contratti più stabili. Quindi sarebbe un provvedimento importante per tanti precari. Esatto, è un provvedimento importante. Poi non contiene solo questo, contiene naturalmente molte altre cose. Io mi concentro sulle cose più problematiche. Il problema qual è su questa stabilizzazione? È la modalità con cui si effettuano, perché chiaramente non si possono creare diseguaglianze tra persone che magari hanno fatto il concorso e l'hanno vinto, che non possono vedersi passare avanti magari persone che non hanno fatto dei concorsi. Quindi, giusto per semplificarle, no? Quindi persone che non hanno fatto i concorsi, ma che magari lavorano comunque già da anni dentro la pubblica amministrazione, per cui il problema è stato cercare di trovare una quadra per come dire, tenere in considerazione le necessità di famiglie, di persone che lavorano, ma anche i criteri di equità e di meritocrazia. Però la quadra mi sembra che sia ancora tonda o triangolare al momento. No, sono state fatte delle modifiche, sono state introdotte delle modifiche abbastanza importanti. Noi abbiamo espresso, siamo stati piuttosto combattivi, già in sede al Senato avevamo imposto delle modifiche, qua abbiamo sollevato numerose critiche. Quindi che prospettive ci sono per i tempi? No, adesso stiamo per votare, guardi, adesso siamo riusciti a trovare la quadra nel pomeriggio, anche valutando in molta serenità, anche dialogando con l'opposizione, che aveva anche dei rilievi, degli emendamenti che sono stati anche accolti, quindi è stato fatto, io credo, da quel punto di vista un buon lavoro di mediazione. Ci aspettiamo allora che passi, c'è un minuto e mezzo, non abbiamo più, anzi un minuto a questo punto, mi pare. 20 secondi, no, mi dicono che abbiamo 20 secondi, quindi non riusciamo a parlare di Scelta Civica, Irene Tinagli, ci tenevo molto. Anche perché Monti oggi ha confermato le dimissioni, ma ha detto che resta nel gruppo. Anche lì ci sarebbe stato bisogno di fare un po' di chiarezza. Grazie a lei. Sarà per un'altra volta. Buon lavoro intanto. A presto. Anche a voi, buonanotte. Grazie, buonanotte. E qui ci dobbiamo fermare per una piccola pausa e poi ritorno ricordandovi i fatti principali.